Ciao, io sono Laura Voltolina e questa Podletter è Il segreto di una vita luminosa non è un segreto. Se in questo momento trovi la tua vita un po' opaca, la parola magica è Meraki, l'essenza di te stessa o te stesso. È l'arte di agire dal cuore, di esprimere pienamente chi sei, portando nel mondo la tua autenticità. Quando ti muovi nella vita connessa o connesso alla tua essenza, occhi e cuore brillano e le giornate diventano molto più luminose, un po' come succede con gli addobbi natalizi. Di giorno sono, quando va bene, carini. È quando accendi le luci che cambia tutto. Il mio Meraki è aiutarti a scoprire il tuo, ad allinearti alla scintilla che ti rende unica o unico. Il mondo ci porta a perderci, è quasi fisiologico. A me interessa che ogni volta tu ti ritrovi, che la tua luce si riaccenda e che tu ti accorga che non si era mai veramente affievolita. Lo faccio creando per te uno spazio sicuro in cui le tue risorse più profonde possano venire a galla per accendere le tue luci ed illuminare te stessa o te stesso e il mondo. Ogni pratica yoga che guido è pensata per questo, aiutarti a trovare l'allineamento con il tuo scopo di vita, per riconnetterti con la tua essenza e per vivere in armonia con tutte le parti di te. Creo esperienze yoga specifiche online e in presenza, individuali e collettive. Ogni singolo percorso è pensato per risvegliare e far crescere le parti di te che sono pronte a manifestarsi. Ho ideato un approccio unico che integra la mitologia e la narrazione nella pratica yoga. Infatti, le storie antiche traboccano di simboli e significati e si intrecciano con i movimenti e col respiro, così ogni pratica diventa speciale, interessante, senza mai perdere la leggerezza che ti mette in contatto col tuo io più autentico. Ogni movimento, ogni respiro, ogni immagine, ogni pensiero è un'opportunità per connetterti con il tuo Meraki, perché la relazione più importante che puoi coltivare è quella con te stessa, te stesso e con tutte le parti che ti compongono, che chiedono di essere riconosciute e onorate. Lascia che il tuo Meraki illumini la strada. Un abbraccio grandissimo, Laura. Senti il richiamo di questo percorso di consapevolezza e trasformazione? Beh, segnati queste date. Da sabato 31 maggio a lunedì 2 giugno, un percorso per sbloccare la creatività. 3 giorni di yoga retreat in Toscana. Da venerdì 4 a domenica 6 luglio, un percorso per centrare gli obiettivi, allineando intuito, emozioni e consapevolezza. 3 giorni di yoga retreat in Toscana. Da venerdì 26 a domenica 28 settembre, un percorso per sfruttare l'energia dell'ansia. 3 giorni di yoga retreat in Toscana.